известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I wasn't knocking someone's door down, I was running from that. When I got out, I was in that. I was already through that. I had that. I had the studio. I went to the studio, went to Vox Studios, I had it all, and I looked at it and I said, this is a bigger jail. Questa è la voce di Satana, se vogliamo andare un po' in controtendenza con le celebrazioni della fine degli anni 60, soprattutto di quel magico 69, di quella leggendaria, mitica estate del 69, che sono così ricorrenti, onnipresenti, colano letteralmente dalle pagine dei giornali, dai programmi televisivi. No? Questa è la voce di Charles Manson, l'uomo a cui viene attribuita la fine degli anni 60, l'uomo che avrebbe scritto la parola fine al termine del decennio d'oro della cultura popolare e avrebbe avviato invece l'avvento di quegli anni 70 ben più problematici e di pasta, di materia completamente diversa. Charles Manson significa la strage di Bel Air, anche se poi in realtà il quartiere in cui si è svolto era Beverly Hills, insomma il caso Sharon Tate, le 5 persone trucidate in un cottage di Los Angeles, fra le quali Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, e 4 amici o persone capitate per sbaglio ad opera dei membri di questa setta satanica, che adesso veramente a rivederla 40 anni più tardi è qualcosa di pressoché incomprensibile, anche se sono stati versati fiumi di inchiostro, è stato scritto, raccontato, analizzato, vivisezionato tantissimo di quella storia, dei suoi protagonisti più o meno involontari, a partire appunto dalla mente malata di Charles Manson, un esaltato pazzoide che dette origine a una setta di persone giovanissime, di solito mentalmente non particolarmente abilitate a una vita normale, invece facili a essere condizionate dall'arroganza di questo personaggio, che poi le avrebbe addirittura condotte, convinte, forse sotto ipnosi, forse semplicemente sotto condizionamento, anche con utilizzo di stupefacenti, di allucinogeni, a compiere una serie efferata di delitti, in particolare le 2 stragi andate in scena nelle notti dell'8 e del 9 agosto 1969, per l'appunto a Los Angeles, con un numero complessivo di 7 vittime, per le quali stanno ancora pagando tutti in galera, Charles Manson e i suoi adepti, e ancora pagheranno. C'è una notizia, anzi ce ne sono un paio di attualità a margine di questa rievocazione, che poi appunto è la rievocazione di come sono finiti gli anni 60 americani, no? In quello splendore, in quel brivido, anche in quella straordinaria turbolenza che passava attraverso lo sbarco sulla Luna, che passava attraverso il Festival di Woodstock, passava attraverso l'incidente Chappaquiddick che vi abbiamo raccontato qui a Jefferson, rievocando un'altra pagina nera sempre di quell'estate calda, quando Ted Kennedy finì nelle acque di uno stagno nell'isola di Chappaquiddick a largo di Cape Cod e causò la morte di Mary Jo Kopichne, un ex assistente di suo fratello Bob, un'altra pagina nera della politica americana e della carriera di colui che era certamente indirizzato verso una corsa presidenziale. Invece sull'altra costa ne succedevano di vario genere, insomma era stata appena consumata nella splendente, rovente San Francisco l'estate dell'amore, era appena stato celebrato nello stato di New York il Festival di Woodstock e la cultura giovanile stava conoscendo i suoi apici, però la stessa cultura della liberazione produceva poi delle, no, delle derivazioni maligne, come appunto questa setta dominata da adorazioni sataniche, ma più che altro dominata dalla follia di una mente poi capace di imporsi ad altri, quella di Charles Manson. Dunque, una delle ragazze di Manson ha chiesto ancora una volta la grazia, si chiama Susan Atkins, ecco lei che in prima persona la notte della strage della casa di Sharon Tate accoltellò e uccise Sharon Tate. I report, i rapporti, rapporti, le ricostruzioni dei fatti di quella notte, ormai precisi nel più maniacale dei particolari, sostengono che proprio la Atkins, che all'epoca aveva una ventina d'anni, stiamo parlando di ragazzini, con un coltello in mano si aggredì, mise sotto Sharon Tate, che era in attesa di un bambino a poche settimane da quella maledetta notte. La Tate chiese misericordia alla Atkins, che rispose con la più spietata feroce. La Tate gli disse: fammi vivere, perché voglio dare alla vita il mio bambino. E la Atkins rispose: non avrò alcuna pietà di te, e la accoltellò ripetutamente, proseguendo poi la notte di follia omicida e di follia tout court, scrivendo lei in prima persona sul muro e sugli specchi di quella casa le famose frasi poi passate alla storia, no? Helter Skelter e quant'altro. Questa donna da 40 anni, per l'appunto, perché poco dopo i membri della setta di Manson, lo stesso Manson, vennero catturati, processati, riconosciuti colpevoli, condannati prima a morte, poi ci fu una modifica della sentenza in carcere a vita, e quindi da 40 anni questa donna, che oggi ne ha 61, vive dietro le sbarre con un curriculum di perfetta carcerata, un curriculum carcerario assolutamente esemplare, in base al quale un vero e proprio prigioniero modello, in base al quale ha presentato per ben 17 volte una richiesta di grazia, alla quale si è sempre opposta, e in queste cose il parere della famiglia è decisiva, si è sempre opposta la sorella Debra, la sorella di Sharon Tate, la giovane attrice, il personaggio più in vista tra quelli massacrati in quella serata. Pensate che lo stesso accusatore, procuratore distrettuale, che seguì il caso, che si chiama Vincent Bugliosi e che è diventato poi molto famoso anche nello show business americano, e non solo, perché scrisse poi un bellissimo libro intitolato per l'appunto Helter Skelter, in cui riassume gli atti di quelle notti di follia, ma prova anche ad andare oltre, ad analizzare le motivazioni all'origine di una storia così pazzesca. Bene, lo stesso Bugliosi invece, in occasione delle udienze per la richiesta di grazia da parte della Atkins e delle altre sue compagne, soprattutto le due ragazze che insieme a lei si macchiarono dei più tremendi delitti, a tutte è sempre stata negata la grazia. Bugliosi ha sempre detto: per quanto mi riguarda, ritengo che Susan abbia sostanzialmente pagato il suo debito, forse non completamente, ma bisogna tener conto delle sue condizioni di salute, che sono gravissime. La Atkins ha un cancro, vive paralizzata e immobilizzata in un letto, si dice che le resterebbero poche settimane da vivere, al punto che è stata ora trasferita dal carcere di Frontera in un altro carcere di impronta più clinica, che è sito in un posto che si chiama Coachella. Di fatto l'ennesima presentazione di grazia va incontro quasi certamente a un ennesimo no da parte della giustizia californiana. La pensa allo stesso modo, tra l'altro, anche il governatore Arnold Schwarzenegger, e la pensa allo stesso modo anche la netta maggioranza degli americani, che ritengono che da un delitto come quello inscenato dalla setta di Manson non si torna indietro, non c'è ritorno. Una volta caduti in una abiezione di questo genere, non c'è possibilità di rientro. L'altra notizia a margine di questa vicenda, che, come vi dicevo, in un certo senso riassume, no? Rappresenta, iconizza un po' l'altra faccia di quell'estate del 69, in cui l'America, peraltro sprofondata nel disastro Vietnam, sprofondata nel disastro Nixon e nelle sue clamorose dimissioni, però l'America era il centro del mondo, catalizzava l'attenzione del mondo nel bene o nel male, come forse mai aveva fatto prima. Allora, l'altra notizia è che Charles Manson è stato raggiunto in carcere, nello stesso carcere, da un altro personaggio del quale vi abbiamo raccontato a più riprese le vicende nel corso di Jefferson. Si chiama Phil Spector, è il più famoso produttore del pop nel suo momento d'oro, nella sua epoca più brillante, più gloriosa e anche più ricca, economicamente più intensa. È l'uomo che ha prodotto da Tina Turner ai Beatles, John Lennon, ha creato il Wall of Sound, un marchio di fabbrica sonoro, musicale, che rende i suoi dischi inconfondibili. È a sua volta incappato in una storia orrenda, si è reso responsabile di quello che è stato giudicato un omicidio di secondo grado di una ragazza che ha conosciuto durante un ride così notturno nei nightclub Los Angelini, l'ha portata a casa, probabilmente l'ha uccisa senza premeditazione, ma nel corso di un altro episodio di follia con un colpo di pistola. Ebbene, Phil Spector è entrato nello stesso carcere dove risiede da 40 anni Charles Manson. Ebbene, Charles Manson è stato informato della questione e avrebbe mandato una letterina a Phil Spector, perché poi Charles Manson, come forse alcuni di voi sanno, fra le sue attività meno nefaste ha quelle di essere un musicista, sebbene fallito, sebbene mai riconosciuto dal mondo ufficiale della musica americana, se non proprio dai cultori dell'orrido come in questo caso. Ebbene, Phil Spector sarebbe stato raggiunto da un bigliettino di Charles Manson che gli dava il benvenuto nel carcere dove probabilmente trascorreranno entrambi gli ultimi anni della loro vita. Naturalmente gli chiedeva anche qualche consiglio, in fondo qualche consiglio di produzione da un maestro del settore come Phil Spector non si dovrebbe negare a nessuno, neanche a l'uomo più cattivo del mondo. Ebbene, lasciamo l'America del 69, le due facce della luna di questa America. Da una parte scendeva l'uomo a scoprire il pianeta dei misteri, dall'altra la stessa America si macchiava di colpe gravissime come quelle che abbiamo rispolverato oggi. Torniamo all'America del 2009, un'America che è in una fase diversa di elaborazione, ripensamento, ristrutturazione, forse in un tardivo avvio di ventunesimo secolo. secolo per quello che riguarda le proprie prospettive. E ci sono tante storie in circolo delle quali abbiamo parlato spesso in questi giorni. Ci sono dei personaggi assai rilevanti, come l'ex segretario di Stato Colin Powell, che di tanto in tanto si fanno vivi per dare un po' una sistemata alle cose che accadono tutto attorno. Insomma, c'è stata questa baruffa, diciamo così, di carattere razziale. Abbiamo parlato a più riprese a Jefferson, questo professore di Harvard che si chiama Henry Louis Gates, che si è terribilmente alterato il giorno in cui, non riuscendo a entrare dalla porta del suo appartamento, è stato avvicinato dai poliziotti che gli chiedevano cosa stesse facendo. L'incidente poi si è aggravato, Gates è stato addirittura arrestato, è stato portato alla stazione di polizia, trattenuto per 4 ore. Ne è nato un vero e proprio caso politico nazionale che ha convinto addirittura Barack Obama a intervenire con un'ammonizione nei confronti della polizia di Boston per troppa precipitazione in certe occasioni, come quella in questione, a sfondo, una precipitazione a sfondo razziale, secondo Barack Obama. Ne sono nati contraccolpi di ogni genere, Obama ha fatto marcia indietro, i poliziotti di Boston e non solo si sono molto arrabbiati, adesso ci sono anche dichiarazioni di altri poliziotti di altri posti d'America che dicono non voteremo mai più per Barack Obama. Scende in campo Colin Powell e dice, mentre Obama invita a bere una birra, lo raccontavamo ieri, i due contendenti, il poliziotto e il professore, Powell scende in campo e dice: ma ragazzi, ma cose più serie da fare? Niente. E invoca, insomma, una condotta adulta in casi come questi. Dice, tira le orecchie al suo amico professore, che conosce assai bene, al professor Gates, gli dice: ma in questo caso c'ha le sue colpe, doveva essere più moderato, doveva comportarsi in modo più urbano. E in ogni caso credo che in questa occasione, in questo frangente, gli americani, no, anche americani molto in vista, hanno dimostrato di essere un po' infantili. Credo che sarebbe stata opportuna una condotta più adulta. Questa è la parola usata da Powell, che peraltro poi si lascia andare anche ad alcune dichiarazioni a margine attorno alla figura di Sarah Palin e alle sue recentissime dimissioni dalla sede di governatore dello Stato dell'Alaska, perseguendo probabilmente un futuro politico su scala nazionale. Powell dà la sua benedizione alla mossa di Sarah Palin, la definisce una figura affascinante e pensa che se si muoverà con le giuste cautele davanti a lei ci possa essere anche, appunto sul piano nazionale conservatore, un futuro luminoso. E vi do alcune altre notizie nel nostro apposito spazio che riguardano l'attualità americana. La prima riguarda Robert Gates, il segretario alla difesa americano, che sostiene che gli Stati Uniti potrebbero accelerare il disimpegno dal Iraq. Gates è in visita nella regione, ha parlato di alcune chance di modesta ma significativa accelerazione del disimpegno militare dall'Iraq nel corso di una conferenza stampa a bordo di un aereo militare. Ha confermato di aver ricevuto informazioni dal comandante delle truppe americane stanziate in Iraq, il generale Ray Odierno, di cui spesso seguiamo le imprese, riguardo al sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza nel paese medio orientale. Il presidente Obama ha annunciato, vi ricordo, il ritiro delle forze da combattimento americane dell'Iraq entro il 31 agosto 2010, quindi tra un anno e un mese, tra 13 mesi dovrebbero rimanere soltanto 30-40.000 militari con funzioni di addestramento delle forze di sicurezza locali, e anche questa funzione verrebbe svolto per un altro anno ulteriore fino al completo totale ritiro delle truppe. E poi va notato un intervento davanti al Consiglio per le Relazioni Estere svolto dal segretario americano alla sicurezza nazionale Janet Napolitano, che ha svelato un programma ormai sancito dall'amministrazione Bush, amministrazione Obama, relativo alla lotta al terrorismo, che riecheggia, e questo è sorprendente, per molti versi quanto è stato fatto da George W. Bush e dal suo staff durante il doppio mandato di presidenza. Dedica all'argomento un lungo articolo il Wall Street Journal e si parla di una sicurezza degli Stati Uniti al cospetto della minaccia islamica come punto centrale dell'amministrazione Obama e della attenzione di Obama nel campo della sicurezza, tanto più alla ripresa dei lavori dopo l'estate. In più di un'occasione, a suo tempo, Obama aveva criticato le scelte di Bush riguardo alla lotta al terrorismo, ma la Napolitano, scrive il Wall Street Journal, spiega che l'attuale amministrazione in effetti non vuole sovvertire i programmi messi a punto di Bush. Tra le novità previste ci sarebbe un maggiore coinvolgimento della società civile e un incremento degli sforzi di cooperazione con i governi stranieri, soprattutto in materia di condivisione delle notizie di intelligence. E qui, in un certo senso, ecco che si instilla, no, l'idea obamiana di coinvolgimento, di lavoro tutti insieme per combattere il male e i malori del mondo contemporaneo, anziché l'immagine di un'America guardiana, invincibile, guardiana della democrazia, che magari apparteneva più alla visione neocon e alla visione di Bush. Ma in sostanza poi le strategie non sembrano differire troppo. Adesso c'è una breve pausa con le notizie di borsa, poi avremo in studio graditissimo ospite, una voce che sentite spesso da questi microfoni, quella di Alberto Negri, inviato al Sole 24 Ore in Medio Oriente. Ci accompagnerà a sua volta in questo giro d'orizzonte che stiamo tenendo in questa settimana prevacanziera di Jefferson, e parleremo naturalmente di Iran. And you are no longer river to me. And you are no longer river to me. Though your coursing remains eager to acquaint me. And you are no longer docile stream. And you are no longer docile stream. Though your patience proves you bend to ease. The spark met kindling, forgets its gentle ambling. Becoming heat, becoming steam, becoming luminescent glee. Atom splinter sparkling, alive in nimble symmetry. And all along this glistening, blankets we and everything. Shadows dance triumphantly, wordless whisper sighs and pleas. Little ducks envelop thee. You and I in a flame make three. You and I in a flame make three. You and I in a flame make three. Dunque, eccoci qua allora, come promesso, con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore in Medio Oriente. L'avete sentito molto spesso nelle ultime settimane, quasi sempre da là. Adesso invece, per fortuna mia, è qua, quindi potremo chiacchierare con agio in studio. Parleremo di Iran innanzitutto, parleremo di Afghanistan, da cui Alberto è tornato da poco. Parleremo anche di una serie di turbolenze, di sommovimenti in questo Iran dopo la grande turbolenza post-elettorale, e in modo anche come mandato di questo spazietto, insomma, di provare a fissare un po' uno scenario, come stanno le cose, lo stato delle cose in questo momento. 30 anni dopo, peraltro, come dice il libro che Alberto Negri ha pubblicato da Tropea, Il turbante e la corona, Iran 30 anni dopo, una autentica rivoluzione, la parola mai a caso come in questa occasione, a cui in questo lavoro, in questo saggio, Alberto, tu dedichi anche, immagino, una riflessione, no, a distanza, quindi 30 anni sono un lasso di tempo sufficiente per guardare il prima, il durante e forse anche il dopo, è così? Sì, certamente, anche perché la prima volta che andai in quel paese era il 1980, io avevo 24 anni e quindi parlo di qualche cosa che appartiene alla mia gioventù, oltre certo. che alla gioventù della rivoluzione iraniana. Devo dire sinceramente che allora capii molto poco, perché arrivai in un paese, sì, dove c'era stata da un anno la rivoluzione, ma anche allora in grandissima turbolenza, dove stava prevalendo l'area religiosa radicale, ma dove ancora esistevano altre correnti forti, nazionalisti, nazionalisti religiosi, liberali, che a poco vennero anche brutalmente repressi e sconfitti appunto la religione. Quindi tu in questi 30 anni, mi sembra molto interessante, hai seguito diciamo la parabola, no, del cambiamento, del grande cambiamento in Iran, ma se tu dovessi provare a suscitare una logica all'interno di questo grande cambiamento, credo abbia un'ombra religiosa probabilmente, ma come la potresti descrivere? Qual è la grande logica alla base di questa rivoluzione? Beh, la grande logica alla base di questa rivoluzione è nel titolo, forse anche del mio stesso libro, Il turbante e la corona. Fu abbattuta la corona dello Shah, il trono del pavone, e alla corona fu sostituito il turbante di Khomeini. Certo. Cioè in qualche modo la logica purtroppo è una logica molto dura, ha un potere assoluto, quello dell'imperatore, dello Shah in Shah, si sostituì il potere assoluto di Khomeini. La morte di Khomeini nell'89 praticamente chiude la fase importante della rivoluzione e ne apre un'altra in cui non c'è nessuna vera figura grande, carismatica, che può sostituirlo. Una rivoluzione popolare la definiresti tu a riguardarla da oggi? È un terreno fertile? La definirei una rivoluzione delle masse. Popolare forse è un aggettivo che si addice europeo. Più europeo, però fu certamente una rivoluzione di massa. Khomeini, quando tornò nel primo febbraio a Teheran nel 79, fu accolto dalla massa appunto di 5-6 milioni di persone. Del resto, queste stesse masse, soltanto un mese fa, le abbiamo viste di nuovo in piazza Teheran. In una coincidenza che non è soltanto un anniversario, 30 anni dopo la rivoluzione sembra prendere un'altra direzione proprio a partire da queste grandi masse nelle piazze. Bene, vi ricordo allora il libro di Alberto, si chiama Il turbante e la corona, Iran 30 anni dopo, per guardare alla base delle storie che invece Alberto giornalisticamente racconta in questi settimane, in questi mesi e anche in questi giorni, perché ci sono delle novità secondo me da provare a inquadrare, a collocare nel post elettorale, la grande discesa nelle piazze, la grande protesta, i tanti arresti, i morti, un presidente che si conferma ma che si colloca forse in un modo meno fluido, no? Meno naturale all'interno dello scenario iraniano, tant'è vero che stanno già arrivando dei contraccolpi anche piuttosto violenti ancora prima che venga sancita la sua presidenzialità, se possiamo dire così, e che arrivano da destra, dall'ala conservatrice del paese, che evidentemente non ne approva la linea. Poi puoi darci un quadro, un giudizio su ciò che sta avvenendo? Ma quello che sta avvenendo credo che sia appunto uno dei passaggi di questa grande fase di turbolenza di cui forse non vedremo la fine oggi né domani, probabilmente. Quello che sta accadendo è che c'è una lotta non soltanto a livello di masse popolare, ma c'è una lotta ai vertici ferocissima. Abbiamo visto Rafsanjani, l'ayatollah Rafsanjani, che con Khamenei prese un po' l'eredità di Khomeini dopo la morte dell'imam, in qualche modo opporsi a questa elezione di Ahmadinejad, addirittura chiamare il popolo a testimone, ad attore della politica iraniana. E oggi la lotta al vertice è anche addirittura non soltanto nel campo fra i riformisti e i conservatori, ma anche tra i conservatori stessi, perché molti non approvano questa deriva. Ma qual è la deriva vera? Cos'è accaduto in questi anni in questo paese? è accaduto qualcosa di fondamentale. Questa era nata come una repubblica islamica ed è diventata in realtà una repubblica autoritaria per la forte ascesa dell'ala militare. Ahmadinejad ha significato questo, l'ascesa dei Pasdaran, delle guardie di rivoluzione, delle milizie dei Basigi. Ecco, questo è stato il vero significato. Però quello che rimprovera adesso l'ala conservatrice è di non essere abbastanza, no, pronto a rispondere alle indicazioni della guida suprema, insomma, di non essere abbastanza religiosamente prono, se possiamo usare questa, alle scelte che vengono dalla parte sacerdotale del governo della nazione. Sì, e soprattutto di non rappresentare quell'ala solo religiosa, ma anche economica, di potere, che in qualche modo costituì la base della rivoluzione, certo. Per esempio l'ala dei Basari, dei, certo, grandi commercianti del Bazar, l'Arigiani, che ha scritto una lettera di forte rimprovero ad Ahmadinejad. L'Arigiani, ricordo, è il presidente del, certo, Parlamento, e rappresenta proprio quell'ala dei Basari, dei grandi commercianti, che fu quella che all'epoca di Khomeini costituì la rete necessaria per poi avviare la rivoluzione. Ecco, molte anime a questa rivoluzione, tenerle insieme è molto difficile. Che cosa potrebbe accadere? Potrebbero accadere due cose sostanzialmente: l'ingresso dell'Iran in una grande fase di turbolenza con lotte pesanti tra fazioni, o il tentativo di trasferire le tensioni interne all'esterno. Ecco, perché poi tutto il quadro che ci stai descrivendo così bene ha però terribilmente l'aria di essere un quadro domestico, come dicono gli americani, interno, un complicato scenario multilivello, no? Multilivello, con francamente delle emanazioni a prima vista abbastanza relative riguardo a quel mondo che invece guarda con una preoccupazione dinamica nei confronti dell'Iran. Ma giustamente lo guarda con grande preoccupazione, perché 30 anni fa la rivoluzione significò proprio questo. Non fu soltanto la caduta dello Shah alleato degli Stati Uniti, la perdita del guardiano del Golfo per Washington, certo, ma fu anche l'aprirsi, prima di tutto, l'ascesa di una rivoluzione islamica, la prima di una repubblica islamica in quel modo, che poi costituì una sorta di esempio, in qualche modo di modello, che ebbe e ha avuto grande influenza soprattutto sui musulmani sciiti del Medio Oriente, dal Libano alla Palestina all'Iraq. Questo ha avuto un grandissimo significato allora, l'ascesa della rivoluzione. La trasformazione di questa Repubblica Islamica, la sua entrata in una fase di turbolenza, bene, potrebbe creare un nuovo vuoto, una nuova situazione, certo, innescare una nuova dinamica molto difficile da prevedere, probabilmente forse anche da controllare. Bene, nella seconda parte della presenza di Alberto Negri qui in studio da noi parliamo di Afghanistan, perché appunto è reduce da una visita da quelle parti, ma vorrei chiudere sull'Iran con invece una tua nota su Ahmadinejad, sul presidente che è, come dire, adesso ha attraversato, almeno dall'estero, dall'osservatorio italiano, altri due mesi di mali giudizi, insomma di considerazioni negative. Raramente si identifica, no, una qualche cifra di positività in lui, quando non si va poi giù veramente pesanti. Vorrei una tua opinione su questo personaggio, che comunque catalizza lo scenario iraniano. Beh, io l'ho incontrato un paio di volte, e nel 2005, alla sua prima elezione, entrai a casa sua, fui portato da un consigliere, fui accolto anche dalla moglie in casa, una casa modesta. È un uomo modesto, a più riprese. Piccolo borghese, fuori dalla casa c'era una vecchia Peican, che è un vecchio modello di auto che addirittura adesso è fuori produzione. Questa casa è stata comprata a credito insieme al fratello, con cui peraltro ha litigato. Lui chi è? Lui è il figlio di un fabbro che viene dalla provincia, rappresenta quei giovani studenti che ebbero per la prima volta la possibilità di andare all'università e in qualche modo approfittarono. È un figlio della rivoluzione. È un figlio della rivoluzione, è un figlio di quell'Iran popolare che non aveva mai stato protagonista della storia e che con la rivoluzione lo diventò. Secondo te è destinato a restare sulla ribalta in primo piano come in questi ultimi anni? Mi pare già una marineggiata un po' dimezzata negli ultimi. Va bene, ne continuiamo a parlare di questi scenari tra pochissimo, dopo le notizie del traffico e un po' di musica. dunque abbiamo ancora tempo per riprendere la nostra veramente gradita conversazione con Alberto Negri. Ci è venuto a trovare qui in studio l'inviato del Sole 24 Ore in Medio Oriente. Adesso stavamo discutendo una molteplicità di scenari poi, no, che si sovrappongono, si intrecciano, quando poi andrebbero fatti tutti dei lunghi distinguo per capire essenzialmente. Lui ci può aiutare a fare almeno un pochino proprio questo, capire. Reduce da un viaggio in Afghanistan, dove sappiamo bene tutti si stanno progressivamente spostando i riflettori, l'attenzione planetaria nei confronti di uno scenario, se possibile, tanto per dirla con ottimismo, ancora più complicato, vero? Certamente ancora più complicato, e non poi ovviamente distante dall'Iran, perché ha lunghi confini l'Afghanistan, certo, con l'Iran, e soprattutto una lunga storia culturale. Si parlano due lingue in Afghanistan: il Pashto, che appartiene al 40% della popolazione, e poi il Dari, che è in realtà una lingua di stampo persanofono, persiano, certo, e che costituisce un po' la lingua colta. Tra Dari e Pashto c'è anche questa divisione culturale, che poi diventa una divisione etnica e anche poi segna un po' le linee di frattura tra le varie parti del paese. Un viaggio che ti ha portato dove e ti ha fatto vedere che cosa? Ma l'ultimo viaggio che ho fatto l'altra settimana è stato di andare prima di tutto nel sud, nella questa valle dell'Helmand, dove è partita questa offensiva americana. Un'offensiva un po' strana, perché non è fatta di grandi cifre, di battaglie, di morti, nel senso di grandi conflitti, di grandi battaglie. In realtà è fatta di un tentativo di guadagnare terreno ai talebani. Io sono andato con l'esercito afghano, non accade raramente questo, ma è stato molto interessante, molto scomodo ovviamente, perché, certo, l'esercito afghano non naviga nello splendore tecnologico, diciamo. No, certamente si viaggia su fragilissimi pick-up che salterebbero, certo, in aria con una piccola mina, certo, un piccolo petardo, no? Addirittura nella caserma dove fanno base c'è uno di questi pick-up completamente sfasciato che è stato messo su una specie di piedistallo, il monumento al pick-up, il monumento al pick-up, che è una sorta di monito alle, certo, reclute, no? Poi si va in giro con loro, si dorme sempre per terra, cioè è una vita molto dura, però molto interessante, perché si entra nei villaggi e si vede cosa vuol dire il talebanismo. Il talebanismo. Quindi si capisce anche cosa vanno a cercare gli americani e che cosa possono trovare. Esattamente. Cioè, e cosa, secondo te? Beh, trovano una regione dove tutti sono talebani, la popolazione civile lo è, dove la guerriglia gode di un forte appoggio, soprattutto perché protegge la fonte di entrata dell'oppio, perché si oppone a una penetrazione straniera, no? E quindi in qualche modo trova una forte opposizione, sostenuta poi, e lo dicevamo prima fuori onda, anche da stati stranieri, stati del Golfo, l'Arabia Saudita, in qualche modo interessati al fatto che i talebani portino avanti questa versione radicale dell'Islam. Quali possono essere allora le prospettive di una spedizione, seppure altamente specialistica, condotta con una strategia apparentemente rinnovata, in un territorio di questo genere, dove poi alla fine però si parla sempre del vecchio adagio: vogliamo guadagnare, riguadagnare fiducia, simpatie e quant'altro, ma tu parli di ben altro. Beh, la mia impressione è che purtroppo la strategia si stia approntando oggi, in questo periodo, perché nel 2001 gli americani invasero questo paese. Pensate che quando crollò il regime del Mullah Omar, dell'emirato del Mullah Omar a Kabul, c'erano in tutto il territorio afghano non più di 200-300 militari americani, perché gli americani bombardarono dall'alto, ma sul terreno non scesero, furono consiglieri militari che sostennero l'alleanza del nord. E poi la guerra in Iraq assorbì tutto nel 2003, tutte le attenzioni, lasciando un po' questo paese ai margini, e si fanno oggi probabilmente alcune cose giuste che avrebbero dovuto farsi 3-4 anni fa. E nel frattempo però sono cambiati gli scenari. E certamente. Un'ultima parola sulla presenza italiana in Afghanistan. Hai visto qualcosa con i tuoi occhi? Ti sei fatta una opinione soprattutto sugli ultimi sviluppi? Per una disgraziata coincidenza, tra l'altro, mi sono trovato stato Herat il giorno stesso in cui è stato ucciso il Farà sull'isola sulla strada di Farà. Io penso che gli italiani stanno facendo una sorta di guerra, ma non perché vogliono fare la guerra, perché combattono lo stesso nemico che combattono gli inglesi e gli americani, che usa gli stessi mezzi, e quindi non si scappa. Non è una versione bonaria, insomma. Non è una versione bonaria, sì, poi c'è la cooperazione, il tentativo di fare anche una sorta di piccola ricostruzione, di dare un sostegno alle popolazioni, tutto questo va benissimo. Però dico sempre, non nascondiamoci dietro il velo dell'ipocrisia. Va bene, grazie Alberto Negri, grazie della tua esperienza, dei tuoi racconti, della tua competenza. Ricordo il libro che Alberto ha scritto sull'Iran, si chiama Il Turbante e la Corona, Iran 30 anni dopo, edito da Tropea. Questo era Jefferson 2 di oggi. Naturalmente continueremo il nostro giro del mondo anche nei giorni che chiudono il mese di luglio qui a Jefferson. Io sono Stefano Pistolini, in relazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti e a Milano Filippo Aureggi. La mail come sempre è jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook sono Redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. La puntata va come di consueto in replica a mezzanotte, trovate il podcast sul sito della RAI e la diretta arriva domani dopo le 4 qui su Radio 24. State tutti bene.生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。Fancy。